La mamma di Deacon seguiva con attenzione tutto quello che i ragazzi le raccontavano. Si chinava a parlare con i fiori come fossero bambini. Quando le descrissero i primi voli dei petirossini, osservò ridendo: «Penso che insegnare agli uccellini a volare sia un po' come insegnare ai bambini a camminare, però, immaginate cosa avrei di pensieri in più io se invece dei piedi i miei 12 figli avessero le ali». Colin si sentiva così a suo agio con lei. Gli piaceva tanto quel suo modo di fare, così semplice, che non poté trattenersi dal farle una domanda. Cosa pensa lei degli incantesimi? Io sono convinto che esistano e che lei sia capace di farne. Beh, non so cosa intendi esattamente per incantesimi, rispose lei, ma se vuoi dire, per esempio, quella forza misteriosa che fa gonfiare i semi sottoterra e germogliare le piante, che fa brillare il sole, che ha fatto diventare Colin un ragazzo come tutti gli altri, ebbene, sì, credo anch'io che esistano. Però io non sono capace di farne incantesimi di quel tipo lì. Io posso solo dare una mano perché qualche altro, più piccolo forse, si compia. Per farli di sana pianta ci vuole quella che io chiamo divina provvidenza, vedi? Si può chiamare in tanti modi, ma lei non si offende. È qualcosa di così grande e superiore. Non smettere mai di avere fiducia in lei, Colin. Tutto il mondo ne è pieno. Chiamala come vuoi. Solo chi non vuole vederla non la vede. Solo chi chiude i suoi occhi e il suo cuore. Quel canto che ho ascoltato venendo qui parlava di lei, sai? Era arrivata l'ora della merenda. Deacon andò a prendere il solito cesto nascosto dietro il solito cespuglio, ma quando lo aprirono, tutti rimasero sorpresi perché quello che c'era dentro era ancora più buono del solito. La mamma si sedette con loro sotto l'albero e si divertì un sacco a vederli mangiare e ad ascoltarli. Raccontò varie storielle che li fecero ridere e insegnò nuove parole in dialetto. Poi i ragazzi le confidarono come diventava sempre più difficile continuare a sostenere la commedia della malattia di Colin. «Oh, penso che non dovrete preoccuparvi troppo a lungo», disse infine lei. Mister Craven tornerà presto. Davvero? Chiese Colin. Ma non è ancora il tempo, aveva detto alla fine dell'autunno o in inverno. Ma tu sei ansioso di dargli la notizia della tua guarigione, no? È difficile tener nascosto per tanto tempo questo bellissimo segreto. Qualcuno potrebbe scrivergli, raccontargli prima di te. Oh, no, no, esclamò Colin. Voglio essere io a dirglielo. Ogni giorno penso a come fare. Però la cosa migliore mi sembra entrare correndo nel suo studio. Oh, chissà che gioia per lui. Darei qualsiasi cosa per poter vedere il suo viso in quel momento, ma non si può ritardare ancora. Lui deve tornare presto. Poi Susan disse che avrebbe avuto molto piacere di ospitarli nel suo cottage per un giorno intero e cominciarono a pianificare questa visita che tutti desideravano molto. Quando fu l'ora di rientrare, la donna andò al castello insieme ai ragazzi per parlarne con Mrs. Medlock. Prima di congedarsi, Colin disse a Susan: «Non ho parole per ringraziarla di questa visita e di tutto. È stato un po' come avere la mia mamma con me per un pomeriggio». «Ma la tua mamma è sempre con te», lo assicurò la donna, «attraverso quei famosi fili che la divina provvidenza sa intrecciare». Capitolo 27. Vi verrebbe mai in mente, sapendo che una persona ha una malattia molto grave e contagiosa, di andare a razzolare fra le sue cose, non per offrire aiuto, ma per curiosità o leggerezza, sapendo che correte il rischio di ammalarvi e forse morire per quel contagio? Penso di no, che non vi verrebbe mai in mente di farlo. Ebbene, spesso si corre un rischio ancora più subdolo, forse ancora più grave, quando si permette a un pensiero cattivo o anche semplicemente triste di insinuarsi nella nostra mente e di restarci. Come si può combattere il microbo della malattia se subito si provvede a disinfettarci? Così si può fare con il germe del pensiero che può nuocerci molto di più. Si riesce a cacciarlo se non ci si compiace di tenerlo e farlo crescere. In questo caso può rovinarci tutta la vita. Finché Mary rimase di proposito, signorina, sempre no, con pensieri di non considerazione e antipatia per gli altri, alimentati dalla sgradevole impressione di non essere amata e dalla stupida arroganza di non voler far niente per riuscire più simpatica o per capire i punti di vista altrui, rimase sempre una bimbetta giallognola, malaticcia, annoiata, insopportabile e sola. Ma per fortuna le circostanze della vita, seppure tragiche e dolorose, le vennero in aiuto. Dal suo posto di reginetta incontrastata in India andò a finire nello Yorkshire, da un mondo di persone che la trattavano con tanti riguardi spesso assurdi, passò alla convivenza con persone schiette, sincere e semplici come Martha, Dee con la loro mamma e Ben. La sua mente annoiata e piena solo di superbia e orgoglio, cominciò poco a poco a osservare e vedere che nel mondo esistevano anche i petirossi, casette piene di bambini che scorrazzavano nella brughiera allegramente, anche se non erano ricchi, e forse ancora di più per questo. Vecchi giardinieri brontoloni ma interessanti, e poi la primavera, il giardino che ricominciava a vivere, Deacon e i suoi amici. A questo punto i pensieri negativi e tristi che l'avevano oppressa, avvelenandole sangue, fegato e stomaco, se n'erano andati a poco, non c'era più posto per loro. Dovevano entrare ed entravano trionfalmente i pensieri nuovi. Lo stesso era accaduto a Colin, finché era rimasto chiuso nella sua stanza, rimuginando le sue parole e i suoi mali, e sfogandosi col coltivare odio e incomprensione verso gli altri. Con timori assurdi di malattie immaginarie e di morte precoce, era stato veramente un povero ragazzo, malato di nervi, capriccioso, sgradevole a se stesso e agli altri. Colin non aveva neppure un'idea di cosa volesse dire una bella giornata di sole all'aria aperta, che cosa fosse la primavera. Se qualcuno gli avesse detto che con uno sforzo di buona volontà avrebbe potuto camminare perché era un tizio come tutti gli altri, non ci avrebbe creduto, anzi. Ma quando i nuovi pensieri cominciarono ad entrare piano piano in lui, i vecchi vennero cacciati. Il ragazzo migliorò subito, il sangue cominciò a circolare nelle sue vene con impeto nuovo e così le membra intorpidite ripresero le loro funzioni. Quelli che lui chiamava esperimenti scientifici erano semplici propositi ed esercizi di buona volontà, di impegno per migliorare, non avevano di soprannaturale o di magico nulla. Fatti ben più sorprendenti di quelli che abbiamo visto finora possono accadere a chi, quando si senta scoraggiato o depresso, sia capace di reagire subito, cacciando quel pensiero cattivo che lo opprime e sostituendolo con uno buono, luminoso. Ci vuole uno sforzo di volontà per fare questo, a volte anche grande, ma si può farlo. Due cose opposte non possono stare nello stesso posto. Sullo stelo dove coltivi una rosa non potrà mai sbocciare un cardo. E ora? Lasciamo un attimo i ragazzi nel loro giardino e spostiamoci in un paese lontano, in Italia, sul lago di Como. Lì era giunto da qualche giorno un signore inglese, accompagnato dal suo cameriere, e aveva preso alloggio in una di quelle magnifiche ville che hanno il giardino e un grande terrazzo proprio sulla riva del lago. Dalle etichette che c'erano sulle sue valigie, si vedeva che era stato in Norvegia. C'era l'immagine di un albergo favoloso in un paesaggio suggestivo di fiordi. In Austria c'erano figurine allegre di ballerini con i calzettoni bianchi e in testa il cappello con la piuma. In Svizzera, fra le stelle alpine e le montagne con la neve, si vedeva luccicare un lago. Ma nessuno sapeva niente di lui perché non parlava con nessuno. Da 10 anni quell'uomo nutriva la sua mente con pensieri neri e strazianti. Non aveva avuto il coraggio di scacciarli con altri buoni e aveva chiuso le porte del suo cuore. Non aveva nessuna preoccupazione di quelle che affliggono spesso gli uomini. Era ricchissimo, non aveva problemi di salute, poteva viaggiare, visitare luoghi meravigliosi o star tranquillo nella sua splendida casa, e invece era infelice. La sua tristezza e il suo aspetto tetro facevano male alle persone che lo incontravano. Molti pensavano che fosse un mezzo pazzo o che nascondesse qualche terribile delitto nella sua coscienza. Lo evitavano perché il suo malumore sembrava avvelenare l'aria intorno a lui. Eppure sarebbe stato un bell'uomo, alto, distinto, con dei begli occhi grandi neri e i capelli folti, leggermente brizzolati alle tempie. Le spalle erano un po' alte, un po' curve in avanti, ma questo non faceva che accrescere un tantino la distinzione del suo portamento aristocratico. Il nome e l'indirizzo che scriveva nei registri degli alberghi era Archibald Craven, Castello di Misselthwaite, Yorkshire, Inghilterra. Erano trascorsi alcuni mesi da quando Mary gli aveva chiesto quel po' di terra e il suo vagabondare lo aveva portato nei luoghi più pittoreschi e interessanti d'Europa. Ma non aveva voluto fermarsi più di qualche giorno in nessun posto. Aveva percorso su un battello fiumi dai paesaggi ridenti, si era addentrato nelle viuzze di paesini situati sulle montagne o in riva al mare. Aveva vissuto l'avventura dell'isola penisola del Mont Saint-Michel, ma niente aveva potuto sollevarlo dai suoi pensieri. Soltanto una volta in Austria gli era successa una strana cosa. Dopo una lunga passeggiata in montagna, si era sentito stanco e si era sdraiato per riposarsi in un prato dove la tenerissima erba era cresciuta sopra un tappeto di muschio verde. Lì vicino scorreva un ruscello limpido. Ascoltando il suono, gli sembrò di percepire come delle risatine sommesse provocate dall'urto dell'acqua sui ciottoli del fondo. Osservò gli uccellini che venivano a bere, immergevano tutta la testa, poi scrollavano l'acqua che era rimasta sulle piume e volavano via, cinguettando. Era un posto tranquillissimo, silenzioso, e piano piano quella calma e la dolcezza di quel paesaggio cominciarono a entrargli nell'anima e nel corpo stanco. Credette di essere sul punto di addormentarsi, ma non era così. Si drizzò a sedere e guardò tutto quello che lo circondava in quel posto, scoprì che c'erano tanti fiori sui bordi del ruscello e i suoi occhi furono specialmente attratti da un gruppo di non ti scordar di me. Crescevano così vicini all'acqua che i petali ne erano bagnati e lui si sorprese a guardare quei brillantini luccicanti con tenerezza particolare. Una volta era sempre così, si compiaceva della bellezza dei fiori, del loro colore, del loro profumo. Con questo pensiero così diverso dai soliti, il ricordo dei tempi passati cominciò a non essere più così disperante come sempre, ma portò con sé un barlume di dolcezza. Mister Craven non se ne rendeva conto, ma era il primo pensiero buono che lui lasciava entrare nella sua mente e avrebbe cominciato a poco a cacciare quelli tristi. Avete mai visto una chiara sorgente zampillare nel mezzo di un'acqua stagnante? A poco, intorno alla sorgente, l'acqua diventa pura e viva finché il cerchio si allarga e tutta la pozza diventa pulita. Naturalmente il padre di Colin non pensava a questa possibilità, sentiva però la bellezza calma della vallata farsi sempre più profonda e vedeva l'azzurro dei fiori farsi sempre più amico. Rimase là, senza rendersi conto del trascorrere del tempo, contento dopo tanti anni per quel senso di pace e di serenità che sentiva nel cuore. Si era compiuta in lui una di quelle meravigliose opere di cui nessuno sa spiegare molto, ma ognuno ha sentito qualche volta gli effetti. Quel cambiamento improvviso, accaduto senza un'apparente ragione particolare, fu molto importante. In seguito, ritornato a Misselthwaite, scoprì, per caso, che era avvenuto lo stesso giorno e probabilmente nello stesso momento in cui Colin aveva gridato nel giardino segreto: «Sì! Voglio guarire, voglio vivere, crescere, star bene, star bene!» Quella calma singolare era durata ancora dopo che Mr. Craven era tornato in albergo e la notte era stata portatrice non di incubi e disperazione, ma di un sereno riposo. La notte seguente l'uomo stava sulla poltrona senza decidersi ad andare a letto. Aveva aperto di nuovo la porta ai suoi tristi pensieri e loro arrivavano a frotte. Decise di partire l'indomani mattina e riprese il suo vagabondare, triste, però senza che riuscisse a spiegarsene la ragione. C'erano momenti in cui ricordava quel pomeriggio in quella vallata e sembrava che il fardello della sua tristezza divenisse più leggero. Aveva la sensazione di poter tornare a vivere, di pensare, di sentire come un uomo vivo, non come quella specie di ombra che era divenuto dopo la morte della moglie. Piano piano anche lui, sembra impossibile, ma le due cose accadevano veramente nello stesso tempo, tornava alla vita, come il giardino lontano che i ragazzi curavano con tanto amore. Intanto l'estate stava lasciando il posto all'autunno, dai magici colori dorati, e Mr. Craven decise di tornare in un luogo che gli era particolarmente caro in Italia, sul lago di Como. Lo splendore del paesaggio era al massimo, il colore del lago era di un blu stupendamente cristallino ed era estremamente piacevole lasciarsi cullare dalle onde su una comoda barca. Le colline offrivano continui quadri pittorici con quei boschi le cui foglie cambiavano colore. Camminava molto e la sera tornava stanco alla villa, ma si riposava con dei lunghi sonni tranquilli. Non aveva più quella specie di rifiuto per la sera e per la notte, perché non erano più inquietanti come prima per lui. I suoi sogni ora non erano pieni di quell'angoscia che lo aveva tanto tormentato. Forse, pensò, sto recuperando in salute con questa vita sana. Stava infatti recuperando, ma il merito era di quelle ore in cui aveva aperto la mente ai pensieri buoni e gentili. Guardando gli alberi del parco della villa, una sera gli venne fatto di pensare a Misselthwaite e sentì una punta di nostalgia per la sua casa lontana e un vago desiderio di ritornarci. Pensò anche a suo figlio, ricordò quell'enorme letto con il suo baldacchino, i suoi intarsi e quella cosina piccola e triste che giaceva raggomitolata in mezzo ai cuscini. Non sopportava di vederlo sveglio, la sofferenza era troppo atroce. Colin dormiva sempre quando lui andava a vederlo. Ricordò l'ombra che le lunghe ciglia mettevano sulle guance pallide, l'aspetto malato di quel viso d'avorio. E questo ricordo scacciò di colpo il desiderio, anzi la parvenza di desiderio, di tornare a casa. Passarono alcuni giorni ancora. Una sera, dopo una meravigliosa passeggiata durata quasi tutto il giorno, ritornò a casa più tardi del solito. C'era la luna piena e tutto il paesaggio era immerso in quel colore fatato, violetto-argento, che rende tutti i sogni possibili. Il lago era estremamente calmo e liscio, i boschi delle colline erano immobili in quel chiarore magico. Non sentì il desiderio di rientrare. Camminò fino alla balaustra della terrazza che portava all'imbarcadero e si accomodò su una poltrona a sdraio e respirò i profumi della notte. Quella calma scendeva in lui come un balsamo. Si sentiva sereno nell'animo, i suoi nervi erano distesi e piano piano si addormentò. Non avrebbe saputo dire quando era cominciato il suo sogno, se nel dormiveglio o se quando era già assopito. Una cosa però era certa: il sogno era così aderente alla realtà da sembrare vero. Si vedeva seduto sulla poltrona ad ascoltare lo sciabordio delle piccole onde contro la scaletta dove era attaccata la barca. Vicino a lui c'erano delle piante di rose, i cui ultimi fiori spandevano intorno un dolce profumo. Ed ecco che una voce lontana, dolce e felice, lo chiamò per nome. Veniva da lontano, lontano quella voce, ma egli la udì distintamente, come se fosse stata la voce di una persona accanto a lui. Ripeté ancora più e più volte il suo nome, ed egli si alzò in piedi e rispose, non meravigliato di aver riconosciuto la voce di sua moglie, Lilias, Lilias, dove sei? Nel giardino, sussurrò da lontano la voce dolcissima. Nel giardino. Così il sogno finì, ma Mr. Craven non si svegliò e rimase lì tutta la notte, dormendo nella poltrona il suo sonno tranquillo fino al mattino seguente. Quando si svegliò, era giorno fatto. Accanto a lui c'era un cameriere che su un vassoio portava alcune lettere. Mr. Craven le prese e le tenne per un po' in mano, gli occhi fissi sul lago. Stava ricordando tutti i particolari del sogno così strano, eppure così piacevole e vero, che gli aveva fatto compagnia quella notte. Nel giardino, ripeteva sommessamente, nel giardino. Ma io l'ho fatto chiudere il suo giardino, non ci sarà più niente là dentro. Nessuno ha potuto entrarci in questi 10 anni. Gettò un'occhiata sulle lettere. Sopra tutte ce n'era una che veniva dall'Inghilterra, dallo Yorkshire. L'indirizzo era stato scritto da una persona che aveva poca dimestichezza con la penna. Senza neppure chiedersi chi potesse avergli scritto, aprì la busta, ma alle prime parole la sua attenzione si concentrò tutta su quel foglietto. La lettera diceva così: «Caro Mr. Craven, sono Susan Sowerby, la stessa che ha avuto l'ardire di fermarla per parlare con lei alla stazione di Thwaite. Quella volta le parlai di Mary, ora mi faccio coraggio un'altra volta e le dico, se io fossi in lei tornerei a casa. Sono sicura che non rimpiangerà di essere tornato. Mi scusi, signore, se mi permetto di scrivere così, ma sono sicura che se fosse qui, sua moglie le chiederebbe di tornare a casa. Sua devotissima, Susan Sowerby». Mr. Craven lesse la lettera due volte prima di rimetterla nella busta. Il ricordo del sogno ritornò vivissimo. «Voglio tornare a casa», disse. «Partirò oggi stesso». Attraversò il giardino, entrò nella villa, chiamò Pitcher e gli ordinò di preparare le valigie per il ritorno in Inghilterra. Il viaggio durò qualche giorno. Mentre il treno correva sulle rotaie, il pensiero di Colin non abbandonava mai la mente di Mr. Craven. Questo non era mai successo prima. Durante quei 10 anni l'unica cosa che lui desiderava fare, e ci riusciva, era non pensare al suo ragazzo. Ora invece, anche se non faceva niente per farseli venire vicini, pensieri e ricordi erano sempre con lui. Ripensò e rivisse lo smarrimento provato per la morte della moglie e la tristezza di vedere quell'esserino debole strillare e scalciare nel grande letto. Lui era vivo, ma era la causa della morte della sua adorata Lilias. Era quasi uno sconosciuto quel fagottino rosso urlante, e la sua tanto amata moglie non c'era più. Ingiustamente, reso quasi folle dal dolore, aveva pensato così, mentre quel povero bambino, rimasto senza mamma, non aveva nessunissima colpa e anzi aveva più che mai bisogno dell'affetto del suo papà. Ora capiva, intravedeva perlomeno queste cose, ma allora la disperazione l'aveva reso cieco. Aveva dato ordini perché a suo figlio non mancasse niente: dottori, bambinaie, infermiere, comodità di tutti i generi, vestiti, giocattoli, libri, cibi ricercati, vacanze nei posti più belli. Pensava di non essere stato un cattivo padre, ma in realtà non era stato un padre. Non aveva dato a Colin ciò di cui lui aveva invece assoluto bisogno, il suo affetto, il suo interessamento di padre. Aveva allontanato da sé il pensiero di quel bambino debole e malato e si era rinchiuso nel suo sterile dolore. Partito dal castello, ne era rimasto lontano un anno e al suo ritorno aveva trovato il bimbo cresciuto, ma così malaticcio e capriccioso che la sua vista lo aveva reso ancor più infelice. Gli occhi di Colin erano uguali a quelli della sua mamma, ma questo particolare, anziché fargli piacere, gli aveva fatto sentire ancora più forte il suo dolore. Da allora aveva voluto vedere il figlio solo addormentato. Sapeva dal medico e dalle persone che lo curavano del suo precario stato di salute, delle crisi che lo assalivano sempre più frequenti e gravi. Tutti pensavano che non sarebbe vissuto, e invece gli anni passavano e Colin diventava grande lontano da lui. Tutti questi pensieri lo avrebbero mortalmente depresso se non ci fossero stati quei giorni in cui aveva cominciato a sentire in modo diverso. Ora, ascoltando il rumore delle ruote del treno sulle rotaie e guardando i paesaggi che gli sfilavano davanti, pensava: «Forse ho sbagliato tutto in questi 10 anni. 10 anni sono tanti, forse troppi, forse è troppo tardi per fare qualcosa per Colin». Mr. Craven stava entrando nell'incantesimo dalla parte sbagliata. Non si dice mai è troppo tardi quando ci si accorge di aver sbagliato e si sente il desiderio di rimediare. Ma lui non sapeva ancora niente degli incantesimi. Pensò che Susan avesse preso il coraggio a quattro mani e gli avesse scritto solo perché, con il suo istinto materno, aveva visto che Colin era peggiorato e che non c'erano più speranze. Ma poi volle tornare ad allontanare da sé quei tristi presagi e si disse che invece avrebbe potuto essere successo anche il contrario. «Forse Susan pensa che la mia presenza possa far bene al ragazzo», disse fra sé. Mi fermerò da lei prima di andare a casa. L'incantesimo cominciava a funzionare nel modo giusto, ma quando fece fermare la carrozza a metà strada nella brughiera, davanti alla casetta dei Sowerby, trovò solo 5 o 6 bambini che allegri e gentili gli vennero incontro e gli dissero che la loro mamma non c'era, perché era andata in un altro paese ad aiutare una donna che doveva partorire. Ma lei troverà Deacon al castello, lo informarono spontaneamente. Va là a lavorare in un giardino quasi tutti i giorni. Mr. Craven posò i suoi occhi a turno sui visi di quei ragazzi forti e allegri e provò una sensazione di simpatia improvvisa. Trasse dalla tasca una sterlina d'oro e la porse ad Elizabeth, la più grande. Dividila con i tuoi fratelli, disse. I ragazzi dettero segni di sorpresa, agitarono le mani per salutare, seguirono per un po' la carrozza, accompagnando il trotto dei cavalli con salti e urla di gioia. Le altre miglia attraverso la brughiera gli sembrarono piacevoli e si rese conto che era contento di tornare a casa per la prima volta dopo tanto tempo. Quando arrivò al castello, la servitù lo accolse con il solito cerimoniale, ma tutti restarono sorpresi nel vedere che non si ritirava subito nelle sue stanze appartate, ma entrava in biblioteca e chiedeva a Mrs. Medlock di seguirlo. «Come sta mio figlio?» le chiese appena la donna ebbe chiuso la porta alle sue spalle. «Beh, signore, è cambiato», rispose imbarazzata, «è veramente cambiato. Sta peggio? Vede, signore, non so come dirle, da una parte sembra che ci sia un miglioramento, dall'altra il suo appetito, non mangia quasi niente. È diventato ancora più strano e difficile di carattere?» chiese Mr. Creve sbattendo nervosamente le ciglia. «Ebbene, sì, devo dire di sì. Una volta non mangiava niente, poi ha cominciato a mangiare tutto, a mandare in cucina i piatti vuoti. Mi sono rallegrata con lui, ma è durato poco. I piatti sono tornati a essere riportati in cucina, quasi intatti. Poi c'è la storia di uscire. Prima non ne voleva sentir parlare, erano strilli e pianti al solo pensiero. Ora esce tutti i giorni, spesso 2 volte al giorno, sta fuori dalla mattina alla sera con Mary e Deacon, il fratello di Martha Sowerby. È migliorato d'aspetto con queste uscite? Se mangiasse regolarmente si direbbe che è ingrassato un bel po', così temiamo che sia solo gonfio. Se lei permette, mando subito a chiamare il dottore, così sentirà direttamente da lui. Dov'è Colin adesso? Nei giardini, signore, esattamente non so, non permette a nessuno di avvicinarsi a loro o girare per i viali quando loro tre sono fuori. Mr. Craven udì appena le ultime parole. Una frase lo aveva colpito. Nei giardini. Uscì dalla biblioteca. Si sentiva un po' come in un sogno. Gli costò qualche minuto tornare alla realtà. Quella frase gli aveva fatto tornare in mente la voce lontanissima, chiarissima, che aveva ascoltato nella notte di luna. Prese con decisione il viale che portava al cespuglio dei rododendri, passò vicino alla fontana che ora zampillava fra i bei fiori autunnali e giunse nel grande viale dove c'era il muro coperto di edera. Camminava lentamente, gli occhi fissi a terra, gli pareva che qualcuno lo sospingesse verso i luoghi che da tanto tempo non aveva più voluto rivedere. Non sapeva spiegarsi perché, ma continuava a camminare lungo il muro di cinta di quello che era stato il giardino di Lilias. Lui sapeva bene dov'era la porta. Non aveva invece la minima idea di dove fosse la chiave. Aveva dato ordine di seppellirla, ma non aveva chiesto niente dopo. Si fermò un attimo e sobbalzò pensando di sognare ancora. Dall'interno del giardino sentiva giungere strani rumori. Sembrava che ci fossero dentro dei bambini intenti a correre e giocare. Si sentivano delle vocine, degli scoppi di risa repressi, lo scalpiccio di piccoli piedi sulla ghiaia. In nome del cielo, cosa gli stava succedendo? Stava perdendo la ragione. La voce che aveva sentito quella notte in sogno. Bene, ma allora stava dormendo, ora invece era ben sveglio, e quei suoni che gli arrivavano alle orecchie, da dove venivano? Da chi? Ma ecco che le voci si facevano più chiare, si andavano avvicinando al muro. Ad un certo momento le risate echeggiarono cristalline, non più trattenute, e la porta, sotto la cortina di edera, si aprì. Un ragazzo venne avanti di corsa. Non vide la persona che era nel viale perché teneva la testa girata verso i compagni, ridendo, e così gli andò a finire addosso. Mister Craven aveva allargato le braccia in un gesto istintivo. Quel ragazzo bello, pieno di vita, ansante per la corsa che gli era finito fra le braccia, sollevò gli occhi per guardarlo in viso. Erano due bellissimi occhi grigio agata, circondati da lunghe ciglia nere, due occhi brillanti e allegri. Chi? Che cosa? Chi? Balbettò l'uomo. Sì, papà, sì. Sono Colin. Ti riconosco dalle fotografie che sei il mio papà. Sono Colin. Non ci crederai, ma è così. È vero. Non era stato previsto così l'incontro, ma non avrebbe potuto essere più bello. Nel giardino, ripeteva Mr. Craven, come in un sogno, stringendo al petto suo figlio. Sì, è il giardino che ha fatto l'incantesimo, e Mary e Deacon e tutti gli amici di Deacon. Sai, volevamo farti una sorpresa, aspettare che tu tornassi, ma ora sei qui, devi sapere tutto. Sai che vinco Mary nella corsa? Diventerò un atleta, so fare gli esercizi di ginnastica di Bob, diventerò forte come lui. Il torrente di parole gli usciva senza alcun imbarazzo. Qualsiasi ragazzo avrebbe parlato così con il suo papà. Non c'erano più barriere fra loro e il cuore dell'uomo batteva forte, forte per la gioia. Sei contento, papà? Io sto bene adesso, diventerò forte e grande. Mister Craven non riusciva a parlare, tanto era commosso. Infine, appoggiando un braccio sopra le spalle del figlio, disse: Portami nel giardino, Colin, e raccontami tutto. Entrarono tutti e quattro nel giardino. C'era un trionfo di tinte autunnali: oro, rosso, porpora, violetto, erano ovunque. Sui prati si vedevano gruppi di gigli bianchi e rosa. Le rose d'autunno si arrampicavano, pendevano, si intrecciavano dappertutto e la luce del sole, penetrando tra le foglie ingiallite, dava l'impressione di essere in un tempio della volta d'oro. L'uomo guardava e guardava ogni dettaglio. Pensavo che tutto fosse morto qui dentro, disse infine. Anche Mary pensò così la prima volta che entrò qui dentro, ma poi, poco alla volta, vedi, l'abbiamo fatto rivivere. Si sedettero sotto l'albero preferito, tutti tranne Colin, che volle restare in piedi e raccontare la storia, parlando un po' come quando faceva le sue conferenze. Era il racconto più strano, fra tutti i più strani già sentiti raccontare da Mr. Craven. Non perdeva una parola e seguiva con vivissimo interesse le storie dei tre ragazzi, che veniva detta in modo un po' disordinato e difficile da capire per chi non l'aveva vissuta. C'erano mescolati dentro incantesimi, mistero, animali selvatici, petti rossi, il pianto di Colin nella notte, Mrs. Medlock, l'arrivo della primavera, l'apparizione di Ben sull'alto del muro, i panieri con le focacce dolci e le patate cotte sulla brace. Il padre di Colin non poteva fare a meno di scoppiare a ridere in certi momenti. In altri si soffermava commosso a guardare suo figlio. Insomma, papà, eccomi qui. Sono un atleta, uno scienziato e un conferenziere. Ti basta? Oh, come sono felice che tu sia tornato. Ora non ci sarà più il bisogno di nasconderci. Qualcuno si spaventerà adesso quando tornerò a piedi a casa, ma io non vedo l'ora di mettere a riposo quelle carrozzine per sempre. Ben lasciava raramente il suo posto di lavoro, ma quel giorno prese la scusa di qualche verdura da portare in cucina perché non ne poteva più di parlare con qualcuno. Mrs. Medlock, che era rimasta con un palmo di naso vedendo Mr. Craven, non ne poteva più neanche lei di avere notizie. Appena vide entrare il giardiniere, pensò che forse lui sapeva qualcosa e gli andò incontro, tutta sorridente, e gli offrì un bel bicchiere di birra. Ben veniva dagli orti. Forse aveva incontrato Mr. Craven o quei tre diavoli di bambini. Avete visto i ragazzi? Chiese. Sì. E Mr. Craven? Anche lui. Grazie per questa birra, era proprio buona. Ce ne sarebbe un altro goccio? Ma erano insieme? Chiese la donna facendo traboccare la spuma dall'orlo del bicchiere, tanto era interessata. Guardava bene in viso e non prestava troppa attenzione alla birra che stava versando. Sì, Erano insieme. Ma cosa dicevano? Su, Ben, cosa facevano? Ero un po' lontano sulla mia scala. Li ho visti dal di sopra del muro. Stavano tutti seduti sotto l'albero ad ascoltare Colin che parlava. Ero troppo lontano per sentire cosa diceva, però posso dire che sono successe cose grandi, grandi da non crederci. Accennò con il bicchiere verso la finestra. Davanti alla finestra c'era uno spazioso prato tutto verde. Guardate là, se volete vedere qualcosa, disse. Mrs. Medlock volse lo sguardo verso il punto indicato. Poi corse verso la finestra, alzando le braccia al cielo e lanciando gridolini di giubilo. Tutta la servitù la imitò. Sull'erba del prato avanzava Mr. Craven, che appariva così diverso dal solito, così contento come nessuno ricordava di averlo visto mai. E al suo fianco, dritto e sorridente, c'era Colin, che camminava sicuro al braccio del suo papà. Fine.